La lavatrice è rotta. E la facciamo aggiustare. E se non si aggiusta? Mamma l'ha fatta aggiustare un sacco di volte. Ha chiamato tua mamma, ha detto che si è offesa perché abbiamo dato il suo nome al gatto. E perché gliel'hai detto? E non l'ho fatta apposta. Eravamo al telefono, il gatto si stava mangiando la spazzatura e ha urlato: Pina, lascia stare la spazzatura. E perché lasci la spazzatura in vito? Perché l'umido lo raccolgono 3 volte a settimana. Gli altri giorni dove me lo devo mettere? Ass! Cucchiere che pava a me, darsu! Già sono 450 euro d'affitto, più 50 euro acqua, luce, gas e condominio, più adesso! Che cazzo è sta tassa? Tassa rifiuti, sale di urbani. So benissimo che cos'è la tassa, Valentì, la mia è una domanda retorica. Ma non gli si può dire che siamo 72 di spazzatura, ne facciamo poca. Puoi dire quello che ti pare, ma l'immondizia si paga secondo i metri quadri della casa. Ah. E secondo me si cucina. A me piace cucinare. Sai con mezzo chilo di pasta quante volte ci mangiamo tutte e due? No, quante volte ci mangiamo? Se facciamo la media di 72,5 grammi a testa, ci mangiamo 4 volte. Ma dai! A 0,33 centesimi a pacco, praticamente in media, ogni pasto spendiamo in media a testa 0,08 centesimi. E cosa dobbiamo stare attenti a tutto? Dopo tutto. Per esempio, mo si è rotto il sifone. Chi cazzo ha mai visto sto sifone? Come è fatto sto sifone? YouTube, una pigna YouTube. Chiamami il tecnico, così ci aggiusta pure la lavatrice. Sì, dica, non è trecce, non è tutto sifone, si me la bella cagnosa. Il tecnico si prende 20 euro per aggiustare il sifone, più 4 euro sifone nuovo, più 40 euro la chiamata, più 50 euro la lavatrice. Ma come dobbiamo fare? Tu non sei capace di aggiustare queste cose. Più qualcosa in disparte per la salute. Siamo tutti, non si sa... Valentina, dimmi a me che ci ho tutto fatto. No, cerco controllo. Io, cerco io. Cerca, non toccare il mio cartone con i curriculum e i concorsi che si tengono. Rosa. Mettici a mangiare, in ufficio. E stati un po'. Che bello, Rosa. Rosa è il colore delle femmine. Perché alla fine è bello essere femmina. È bello essere femmina perché ti puoi truccare, perché ti aprono sempre la porta, perché non devi portare pesi. E poi io sono la regina della casa. E voglio essere un po' una domenica. Valentina, sei da ballante. Grazie. Che sarà, sarà. E ciò che succederà nessuno saper potrà. Che sarà, sarà. Possono sembrare una tortura, e in effetti lo sono, però sono belle nere col tacco e mi fanno le gambe molto più belle. Devono essere sempre un numero più piccolo, perché sennò mi escono in cicato. Se compriamo 6 salsicce buone dal macellaio, spendiamo 4,50 euro, 1,50 euro a salsiccia, ma ci mangiamo una volta. Se invece compriamo quelle del discount con versione famiglia da 12 a 4,99 euro, a 0,41 euro a salsiccia, ci mangiamo 4 volte. Sarà, sarà. E ciò che succederà nessuno sape potrà. Che sarà, sarà. Dicono che con il plato sono più comode, ma in realtà non è vero niente, perché dentro le dita sono grinzi scure tutte quante, come quando i crampi fanno male. E quando perché che le sta ficcito di scando, ma viene uno schifo. A tavola si combatte con la morte. Mannaggia morta! Sì, ma alla fine ti ci abitui. Non bisogna mai mettere sempre le stesse scarpe sotto lo stesso vestito, perché le scarpe danno quel tacco in più al vestito. Anzi, quel tacco in più. Che sarà, sarà. E ciò che succederà nessuno sape potrà. Che sarà, sarà. E nessun lo sa. Che sarà, sarà. Valentina, ma che hai? Hai fatto la lista della spesa? Vedo chiaro, brilla tutto 1 euro. Caffè Rimbo, 3 pacchi, 9,90 euro. Formaggetto, formaggino, più gelato, green caramel, con morbidine e cacao, 2,29 euro. Riso Mario, 2 pacchi, 2,50 euro. Ma che 5? Brava! Salsiccia del discount, 4,99 euro, confezione da 12. E poi giuro, rinuncio a tutto. Non ti stretta con l'acqua, non ti stretta col fumo, non ti stretta con i soldi, non si beve e non si fuma. E comunque la dovresti chiamare a tua madre. Ah, i minuti gratis, aspetto che mi chiamate così di ricordo. Lo so! Uffa, è l'ultima affare, non ci capite? E comunque non sono nervosa. Poi ti paghi da chi? Ti sembro nervosa? Ti credo. No, no, io non sono nervosa. Io sono stressata per tutto questo. E solamente la quarta volta che cazzo lo chiami in un anno. La media una volta ogni 3 mesi. Sì, ma almeno qua stiamo meglio, qua c'è più spazio. Tu dici tu? Gli altri erano magazzini, non erano manco stanze. Qua ho preso le misure, questo è un binoculo familiare. E se non ci metti un po' di fantasia? Sì, tutta la fantasia che vuoi tu, vai, tutta la fantasia che vuoi tu. L'importante è che rimaniamo nei nostri parametri economici. Qua c'è stata la fame che fa misura che la rovina, fa misura la fame. E non ci possiamo permetterci di spanciare. E ce la facciamo? Ce la facciamo, sacci, ce la facci. E i conti è facci, sacci benissimo, Perché per fortuna che affaticiamo tutte e due, Valentina, Qua ci campiamo solamente noi. Hai capito, Valentì? Capito. Quindi il gatto se ne deve andare. Che c'è del gatto, povera bestia, che ti hai fatto i maluca? E poi, soprattutto quello che ci è costato per sveminarlo, i vaccini, e poi la questione etica. Il gatto non è una bambola che piglia un gatto. Il gatto è un investimento. Che meglio che questo investimento se lo piglia tua madre. Ma come, lei l'ha regalata un'altra volta indietro, io dovevo portare. Ma tanto si chiamano pure uguali, sicuramente vanno d'accordo. Ma sì, ma che hai? Un mese finisco l'apprendistato. Eh beh, da un mese finisco l'apprendistato. Vabbè. Quindi che ti proporranno il primo contratto a tempo determinato. O 6 mesi, o 3 anni, speriamo 3 anni. E poi come al Monopoli stai fermo un giro, 20 giorni. E poi se ti rinnovano il contratto, ti assumono. E se non mi assumono? E se non ti assumono, stanno guaiando, Valentì. Però guadagnerai 6.000 euro all'anno. Davvero? Sì, che praticamente sono 500 euro al mese, 500 euro al mese, sono 125 euro a settimana. Le vanno sabato e domenica sono 25 euro al giorno. Dunque tu lavori 6 euro al giorno sono 4,16 periodiche ore. 4,16 periodiche ore, per tutte le ore al mese sono 668 euro. 668 euro, meno di 2 euro, proprio al 25%, sono 168 euro. 668 euro, meno 168 euro, sono 500 euro al mese, capito? Ma comunque sono 6.000 euro. All'anno io guadagno 8.000. Con i tuoi 6.000 sono 14.000 euro. Dunque, i tuoi 6.000 servono 450 euro per l'affitto, più 50 euro acqua, luce, gas e condominio. Solamente a che se servono? I restanti 8.000 dobbiamo pesare a tutto il resto. Quindi praticamente sono 8.000 diviso 365 euro. Sono 21 euro al giorno, che a testa sono 10,50 centesimi. E se siamo bravi, riusciamo a risparmiare. Riusciamo a farci 5 giorni di ferie all'anno in estate, più 2 a Natale, più 1 a Pasquetta, più un compleanno a te, più un compleanno a me. Sono 10 giorni, 3% di un anno, 3%. Gustavo, io ti amo così tanto che mi viene da piangere. Che uno che non fai conto e manco si trova. 15 euro di cassette medicinali, più 11 euro alla spesa settimanale, più 4 euro e l'end, più 30 euro l'abbonamento mensile dell'autobus, più 5 euro e 50 per... Cosa ti dico 50? Che sono i 5 euro 50? Gustavo, tu sei un gratis, tu sei uno che risolve i problemi, non è che spazi la sé, tu sei proprio uno che risolve i problemi, e quel tocco in più alla sala d'aspetto, e praticamente a volte metto le sedie così bene che persone manca se guardano in faccia, e sto bravo nel mio lavoro, e mi sono dovuto mettere in prova perché me ne stancate i colloqui. Erano proprio scucciati, andavano sempre così, i colloqui andavano sempre così. Ho faticato 3 mesi, sì o no? Sì. Ma va a fare da cosa, stai camminando? Sì. Ma vai a spazzare, sai pittà? Ma vai a spazzare, sei laureate! Ma vai a spazzare, boh, stipendio! Tu si nomme merda! Valentino, che sto si cingere 50? Questo... La casa abbia custa, l'acqua abbia custa, e sta siccia abbia custa, adesso abbia custa. Diavolo, se ne faccia la società, quando è bella, quando papà venne adesso. Ma che c'è da guardare la società? Che tenga la faccia sporca, eh? Noi mamma non è d'assieme, società! Certo, le cose si faranno un po' più complicate, però magari facciamo qualche sacrificio, magari rinunciamo a uscire la sera con gli amici. No, no! Li invitiamo a casa per la cena. Con 2,50 euro riusciamo a mangiare a 6 persone. Un pacco di pasta, una boazza di pomodoro, un po' di parmigiano, l'acqua del rubinetto, perché la pagammo! Non è una cena da signori, ma almeno valentista, ma sì. E poi non riusciamo a farci neanche gli onomastici! E ci dobbiamo arrangiare! Ci dobbiamo arrangiare! Ci dobbiamo arrangiare! Ma prima non era così! E io mi ricordo benissimo! Prima quando ero piccolo, papà mi dava la paghetta e io si compravo le figurine. Poi cresci e sostituissi le figurine con il pub. Poi al liceo qualcosa cambia, diventi giovanotto e il pub non ti basta più. Io volevo il motosino. Mamma mia, quanti lavori che ti ho fatto per un motorino. Un'estate sono andato a fare l'impollinatore di tabacco. Nelle campagne facevo gli innesti di due qualità di tabacco diversi. Prima li impollinavo e poi tornavo sui campi a raccogliere i figli. Poi ho fatto il trasportatore di mobili antichi, l'aiuto pizzaiolo, il giardiniere. Tutto con un motorino. Papà non voleva, era contrario, aveva paura. Ma io dopo 2 anni avevo raccolto i soldi. Allora ho guardato in faccia a papà e ho detto... Papà, io tra una settimana tengo motorino. Prima non era così. Prima i miei sfizi me li mangiavo. I soldi me li mangiavo i sfizi, in viaggi. Mamma mia, quanti viaggi che ho fatto, anche con Valentina. Mi sono girato il mondo. Valentina, ti ricordi quella volta che siamo andati a Cosenza a sentire il concerto dei 24 grani? Come faceva quella canzone? Ma... Forse per me non tornasse mai più. E poi abbiamo preso la macchina e ci siamo fatti tutta la Calabria, fino alla fine, fino ad arrivare in Mietta Sicilia. Abbiamo guardato e siamo tornati a letto. C'era una volta un omino che faceva il lavoro più bello del mondo, nel posto più bello del mondo. Lavorava nel più grande parco giochi mai esistito e azionava le montagne russe. Hai presente le montagne russe? Sebbene il suo lavoro consistesse nel premere soltanto 2 pulsanti, l'omino lo svolgeva con passione e impegno, perché sapeva che per un momento era in grado di controllare la vita di parecchie persone. Ed ogni mattina andava a lavorare contento di poter svolgere un mestiere tanto delicato. Un giorno il suo datore di lavoro gli disse: guarda che il tuo lavoro lo può fare anche il tizio che fa girare la giostra dei cavalli. E allora l'omino andò a lavorare triste e arrabbiato. Si sentiva proprio come sulle montagne russe, a testa in giù, incapace di controllare quello che gli stava succedendo. E allora decise di vendicarsi. E proprio nel bel mezzo del giro della morte bloccò il carrello a metà, costringendo tutti a stare a testa in giù. Valentina, io ho fatto un sogno, ma veramente era un incubo secondo me, no? Io ero avvolto da quest'acqua scura, tutto scuro, e io provavo a chiamare, diceva: Valentina, ma tu non mi sentivi? E in quest'acqua scura vedevo delle immagini tutte sfocate, e queste immagini ogni tanto cambiavano, e non ci capivo niente, e soprattutto ero sospeso, tipo c'è un esempio nell'acquario, no? Dopo tu provo a toccare Prova a aggrappare, prova a camminare, ma non può più da aggrappare in un cammino. E soprattutto, io non so andare. E la decibella aveva una, e ci bella aveva una, e rimane senza ciata. E ci bella aveva una, e rimane affogata. E ci bella aveva una, e non faccela più. E ci bella aveva una, di non trovarmi più. Senti, Matea. Com'è andata la tua giornata? Tutto bene al lavoro? Ma che stai dicendo? Che stai dicendo, Mandy? Siamo stati tutta la giornata qui a casa, per il trasloco. Valentina, ma che hai? Il mio capo vuole farmi firmare una lettera di dimissioni. Quindi me ne vado. O mi cacciano. O trovo un'altra soluzione. Ma perché? Che hai fatto? Pensavo che fare un bambino fosse una bella cosa. No. No. No.